Da quando ho cominciato ho fatto un patto con me stesso, ho messo sempre al primo posto l'essere vero, crudo e grezzo. Adesso che mi guardo indietro penso ce l'ho fatta, anche se questa ha avuto un prezzo, l'ho pagata a testa alta. E resto il prossimo Don R sul microfono, fai spazio. Che rapida un secondo, ma mi hai già scassato il cazzo. Giro coi miei raga mentre tu fai giri in casa, e quando scendi pure in plaza fai il fenomeno, pagliaccio. Uno, tu chi sei? E due, cosa vuoi? Che se ti vedono fumare poi lo vanno a dire i tuoi. Se questi sono i rapper, cari miei, sono il meglio. E se cago mezza strofa gli do il prof di sostegno. Scrivo sono il prossimo, tu leggi sono il prossimo. Bravo, di là tuo prossimo e dopo amatemi, è chiaro. Io sono il massimo che va al massimo, tu al massimo. Se un frocio col microfono che si veste anche da spastico. E se mi ha detto Raffa ammazzali, io ho risposto ok, gli dare un colpo poi tu sbranali. Giro con i prossimi, tu è meglio che ti sposti. Oppure fatti avanti, coraggio, provaci. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare del prossimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare del prossimo. Che nella vita bisogna dare il massimo. Se amo il tuo prossimo, se vallo a dire chi c'era prima di me. Hey! A 12 anni nella piazza con la break, ho già 18 anni cantano e non sanno cos'è un jack jack. Uno per i soldi, due per lo show, oh. Mi faccio già i conti con i soldi che farò. Se questa è la concorrenza vi ho bruciati già da un tot, perché rappo già da un tot e vi spacco già da un po'. Tu ama il prossimo, non questo, ho detto il prossimo. Comprati il mio disco, no egoista, ho detto il prossimo. Contro ogni pronostico, sul beat il mic lo morsico. Uso il passato prossimo, il tuo mic ha fatto l'ossido. Sono una bomba, cluster, la musica mi pesa sulle spalle anche senza ghetto blaster. L'ho detto a Raff, l'ho detto al master. Vi prendiamo tutto, anche i sogni, nightmare. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Che nella vita bisogna dare il massimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Che nella vita bisogna dare il massimo. Tu ami il prossimo, non puoi spaventare il prossimo. Che nella vita bisogna dare il massimo. Tu ami il prossimo, non questo del prossimo.